Il punto di Stefano Folli. La legge contro l'omofobia è necessaria e non si vede come non possa trovarsi un punto di mediazione in Parlamento fra le diverse sensibilità. Tuttavia è sorprendente come qualsiasi aspetto dell'attività di governo richieda un estenuante lavoro di raccordo fra PD e PDL. La legge sull'omofobia non riguarda in senso stretto i temi etici che abbracciano in realtà un'altra sfera, ma è anche essa un obiettivo faticoso. Il problema è che troppe riserve mentali pesano su questa alleanza di governo, tanto allargata quanto obbligata. E troppi a destra e a sinistra temono di perdere la propria anima, cioè la propria identità politica, unico punto fermo in un paese lacerato. Ma è a questo che servono le mediazioni.